Il punto di Stefano Folli. La piccola Tangentopoli di Milano, chiamiamola così nella speranza che sia davvero piccola, solo una coda velenosa del passato, è un imprevisto di cui Renzi avrebbe fatto volentieri a meno. Ma può essere persino un'opportunità per lui se riuscirà a ricavarne la spinta per accelerare sulla via del rinnovamento vero e non retorico della politica, senza esagerare con gli effetti mediatici e con le parole, dal momento che le campagne elettorali non durano per sempre. Quanto a Grillo, che degli scandali dovrebbe essere il maggiore beneficiario, e probabilmente lo sarà anche stavolta, sorprende che non riesca a uscire dal suo personaggio di comiziante in piazza che cerca il facile applauso. Ieri a Napoli ha fatto sapere che anche lui allo stadio avrebbe fischiato l'inno di Mameli. Qualche tempo fa aveva auspicato la fine dell'unità nazionale. Questi non sembrano argomenti politici, quanto piuttosto il tentativo di raccogliere consenso in qualsiasi modo a seconda dell'uditorio che si ha di fronte, il che tradisce forse una qualche difficoltà del grande populista.